in primo piano. Venerdì 3 dicembre, le prime pagine dei giornali titolano soprattutto sui nuovi le nuove rivelazioni di WikiLeaks, ma anche sulla politica. Per esempio il Corriere, le critiche USA Berlusconi nei nuovi rapporti segreti, ma anche in centro pagina il Terzo Polo, sfiducia al Premier per l'appunto. Repubblica, Berlusconi, leader debole e depresso nei dispacci americani, giudizi di Letta e Cantoni. Berlusconi rovinato dai party, per la Stampa. Mentre il Giornale, visto che si parla di Berlusconi appunto assonnato, mette una serie di foto in prima pagina del presidente della Repubblica Napolitano, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, c'è anche la presidente di Confindustria Marcegaglia, Di Pietro, D'Alema, tutti assopiti, insomma, con gli occhi chiusi, chiedendo: anche questi allora sono malati? E poi il Fatto Quotidiano: Eletta cantò tre volte. Perfino il Fido Gianni dice all'ambasciatore americano: Berlusconi è fisicamente e politicamente debole. Mentre Libero mette: Fini, Rutelli e Casini vestiti da qui qua qua, il governo di qui qua qua. Insomma, vedete che i due temi principali sui giornali sono proprio questo: quello politico del Terzo Polo e quello nelle nuove rivelazioni di WikiLeaks, in particolare sullo stato di salute del Presidente del Consiglio. Io però voglio partire da un paio di segnalazioni come di consueto. La prima dal Corriere della Sera, pagina 25. Bevi e guidi, fai lavori sociali. Sono accordi che si stanno espandendo sempre più tra i sindaci e i tribunali per evitare le sanzioni penali per chi viene beccato al volante con un tasso alcolico sopra la soglia. Il carrozziere del Trevigiano ha 39 anni, una condanna per guida in stato di ebbrezza, 90 giorni di lavori socialmente utili. Un po' come succede in America, no? Avete presente queste immagini? Spesso diventano famosi questi casi quando le star tipo Naomi Campbell è stata messa a fare la spazzina per qualche giorno. Ebbene, il comune di Ponzano, ma anche il comune di Sondalo, in provincia di Sondrio, Arcugnano, Vicenza, Paularo, Udine, Sant'Omero, Teramo, sono i primi sindaci, i primi comuni che fanno degli accordi con i tribunali a dire: invece che dare la sanzione penale, tramutiamo tutto questo in lavori socialmente utili, per cui ci sono già dei cittadini di questi comuni beccati con il tasso alcolemico troppo alto, che invece di prendersi una multa, invece una sanzione penale per i casi più gravi, si fanno, che ne so, 60 giorni, 68 giorni di lavoro in Croce Rossa, come succede per esempio a Savona, un noto commercialista, oppure questo carrozziere di Ponzano Veneto che deve appunto raccogliere erbacce che nascondono i cartelli stradali per 90 giorni. È molto interessante questa forma di riparazione sociale che crea sempre una discussione. Bevi e guidi, fai lavori sociali, così a pagina 25 del Corriere della Sera. Mentre voglio segnalare anche l'ennesima di Fabrizio Corona, che questa volta si è fatto beffare un pochino. Un'intera pagina del Quotidiano Nazionale: Corona condannato, esulta per errore. Che ha fatto? La condanna in appello, ridotta per la verità per la vicenda cosiddetta Vallettopoli. Solo che quando il presidente della Corte ha letto l'appello, ha detto: imparziale riforma assolve. Parziale, ha detto parziale. Ma quando ha sentito quella parola assolve, Fabrizio Corona non si è contenuto più. Pugni sul tavolo, esultanza nel suo completo grigio. Questa volta non aveva la classica maglietta aperta fino all'ombelico, ma completo grigio e cravatta, strattoni all'avvocato, abbracci, stordito, allibito. È uscito, solo che il presidente del tribunale non aveva finito di leggere la sentenza, che imparziale riforma assolveva Corona. Parziale, per l'appunto. Per la verità, invece, la condanna era un anno e cinque mesi. E dunque, poi dopo, Corona ha detto: ho esultato troppo presto, mi si dice che devo essere comunque contento, ma no, non sono contento, anche se l'immagine è quella di pugni sul tavolo dalla gioia per aver sentito una parte, una parte sola del verdetto del presidente della Corte. E vabbè, ripartiamo dopo pubblicità e meteo dalla politica, due i temi principali, appunto il terzo polo che nasce e dice abbiamo i voti per sfiduciare Berlusconi, e poi le rivelazioni venute fuori da WikiLeaks sulla salute del presidente Berlusconi e le presunte gole profonde all'interno del governo che avrebbero parlato con l'ambasciata americana, vale a dire due nomi pesanti, soprattutto uno, Gianni Letta e l'onorevole Cantoni. In primo piano. La politica ha 13-12 giorni, quante ne mancano? Al 14 dicembre, il D-Day del giorno della fiducia o sfiducia alla maggioranza in Parlamento, la politica si interroga sulla mossa di chi? Di Fini, Rutelli e Casini, che si sono uniti insieme anche all'MPA di Lombardo, insieme ai Lib Dem, credo si chiamino così, di Tanoni, per fare una mozione di sfiducia a Berlusconi. Il tema è che, mettendo insieme tutti i voti di questi parlamentari più PD e Italia dei Valori, se votassero questa mozione di sfiducia, si arriverebbe teoricamente, se tutti votano, a 317 voti, quindi ci potrebbe essere una maggioranza in Parlamento diversa dall'attuale. Ma insomma ci si esercita su questo tema. Il più impietoso è Libero, con Maurizio Belpietro, mette appunto Fini, Rutelli e Casini con vestiti nei panni di Quiquoquà, il governo di Quiquoquà. E anche Maurizio Belpietro si chiede: ma dove vanno questi Quiquoquà? Gli ex portaborse di Almirante, Bisaglia e Pannella hanno molto in comune, più di 30 anni in Parlamento, l'ambizione di liberarsi dal cavaliere. E infatti Libero mette le foto di Fini, Casini e Rutelli di 20 se non più anni fa, giovanissimi, no? E con la dicitura a pagina 3, eccoli qui, sono invecchiati in Parlamento, sono i tre cinquantenni che si ritengono nuovi, ma pochi sanno che, scartato l'imballo con cui si presentano, sotto si trova solo il vecchio. Questo è il tema. Comunque, anche a pagina 3 del Corriere, Bocchino dice: noi a 317 voti, ecco qui per l'appunto, sfida sugli ultimi incerti. C'è il pallottoliere, anche il pallottoliere per capire come si vota il 14, anche se già, per esempio, sul Corriere a pagina 3 pare che i Fignani abbiano perso un voto. Catone, Giampiero Catone, intervistato da Monica Guerzoni, alla domanda «Onorevole, lei lascia Future Libertà?» E chi lo ha detto? I Fignani lo dicono. Bisogna vedere quali. Vogliono cacciarmi e di quale reato mi sono macchiato. Non ha firmato questa mozione di sfiducia. Che non voto la sfiducia è matematico. Io non ci sto ad aprire una crisi al buio. Quindi, vedete, già Giampiero Catone dice «Io la fiducia non la voto». Quindi, secondo questo calcolo, già sarebbero scesi a 316 i voti. E poi io faccio riferimento a Fini, non ai pinco pallino qualsiasi, per esempio un briguglio. Come si permette di dire che voteremo la sfiducia? E chi sei tu? Ma scherziamo? Ecco, questo per esempio è Giampiero Catone, uno dei Finiani. Anche se lo stesso Stefano Folli, lo avete sentito nel GR, sarà anche nostro ospite alle 8.30 quando parleremo di questo terzo polo, ha detto, scrive oggi nel solito punto sul Sole 24 Ore, le 317 firme per ora sono una forma di pressione sul Premier. Abbiamo 317 firme, annuncia il capogruppo di Futura Libertà alla Camera, l'uomo più vicino a Fini. 317 firme che equivalgono alla maggioranza assoluta di Montecitorio, ma nella realtà parlamentare quelle firme indicano per ora un progetto: sbarazzarsi di Berlusconi evitando le elezioni, ma non prefigurano una maggioranza politica né tantomeno un governo di ricambio. Cioè, saranno anche 317 firme votassero tutti, ma non c'è una vera maggioranza, non costituiscono una maggioranza, perché poi insomma Di Pietro si dovrebbe mettere d'accordo con Casini, Fini dovrebbe governare con la sinistra e tutto questo potrebbe causare degli ovvi problemi. Certo, tutto però si muove sotto traccia. Berlusconi tira dritto, ho i numeri, a pagina 9 della Stampa con Ugo Magri da Astana, dice: io non mi dimetto assolutamente. Hanno i numeri, pensano di avere i numeri, vengano in Parlamento e mi sfiducino. E così anche sul giornale, credo, sì, esatto, Berlusconi in piazza contro il golpe, anche se poi c'è chi dice, cerca di portare a più miti consigli, secondo Repubblica, secondo retroscena di Repubblica, sarebbero Bossi e Confalonieri i più vicini a Berlusconi a dirlo, meglio fare un accordo con Gianfranco Fini e meglio mettere come successore Letta, Tremonti o un Alfano per cercare di non andare a uno scontro all'arma bianca. Sta di fatto che da qui al 14 ne vedremo come al solito una al giorno. Voglio leggere, anzi non leggere oggi, Riccardo Barenghi, Iena, che dedica a Silvio: e guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire. Capire tu non puoi, tu chiamale se vuoi. Mozioni. E beh, poi dicono che non c'è musica su Radio 24. Mozioni! Iena, disgraziato, oggi mi ha fatto pure cantare. Vabbè, questa è la politica. Il terzo polo, ci interrogheremo alle 8.30 se secondo voi è una proposta credibile oppure no. Oggi ne parlerà anche Oscar Giannino, tra l'altro alle 9, quindi la politica in primo piano. D'altronde l'altro grande tema che trovate sui giornali è quello delle nuove rivelazioni di WikiLeaks, con i nuovi dispacci che l'ambasciatore ex Spogli americano mandava a Washington. E qui nel centro, nel cuore di questi dispacci, c'è che cosa? Lo stato di salute del presidente del Consiglio Berlusconi. Il Fatto Quotidiano è il più esplicito, mette la foto di Berlusconi che dorme assopito e Letta cantò tre volte. Perfino il Fido Gianni dice all'ambasciatore americano: Berlusconi è fisicamente e politicamente debole. Questi sono alcuni dei dispacci che trovate su tutti i giornali. La salute di Berlusconi rovinata dai parti, con due sarebbero le gole profonde vicine a Berlusconi che avrebbero parlato con dello stato di salute, dei festini, delle feste, del fatto che questo poi dopo comportava a Berlusconi il fatto di addormentarsi, una volta addormentarsi addirittura mentre era al telefono con il nuovo ambasciatore americano David Thorne. Sarebbero Gianni Letta, quindi l'uomo più fidato e più vicino a Berlusconi, e il presidente della Commissione Difesa alla Camera, Giampiero Cantoni, un politico che da tantissimi anni è vicino allo stesso Berlusconi. Per la verità, su pagina 10 del Corriere, Gianni Letta: il premier era ed è in forma. Il sottosegretario prima smentisce categoricamente i giudizi sulle precarie condizioni di salute del premier. È psicologicamente e politicamente debole, quelle che gli sono stati attribuiti dalla nota dell'ambasciata americana a Roma. È vero esattamente il contrario di quanto si legge sui siti, ha detto Letta. Ho sempre smentito tale circostanza, affermato la pura verità. Il Presidente del Consiglio era ed è in piena forma, con la vitalità che tutti gli riconoscono, ha sempre affrontato ogni situazione con l'abituale determinazione e la grinta di sempre. E poi però l'ennesima battuta. Gianni Letta, ancora ieri in un incontro pubblico, si è presentato così: ho la responsabilità pro tempore del governo, le responsabilità che ancora per il momento mi competono. È la quarta volta, credo, che Letta dice: sono rappresentante del governo finché dura. Trovate ovunque, sul Fatto Quotidiano, Caimano usa e getta, isolato e ossessionato. Addirittura il Fatto Quotidiano mette a pagina 2, inizia così: il corpo del capo. Problemi al cuore che hanno richiesto un bypass, mal di schiena, sciatica, problemi al collo, asportazione di un frammento di menisco del ginocchio destro, shock anafilattico provocato dalla puntura di un ragno, tumore alla prostata, riduzione di un'ernia inguinale, colica renale con asportazione di calcolo, nella leggera forma di rosolia, problemi al tendine di una mano, una serie consistente di svenimenti, il primo risalente al matrimonio di Antonio Martuscello nel febbraio 98, il più serio quello del 2006 in diretta TV, episodi analoghi nel 98, 99, 2000, 2002, 2003, 2006, 2007. Edoardo De Blasi inizia così la radiografia di un leader, tanto che il giornale, abbastanza inviperito anche il sonno della Repubblica, con un editoriale di prima pagina del direttore Alessandro Sallusti, dice: si attaccano al corpo di Berlusconi. allo stato di salute di Berlusconi e mette provocatoriamente Alessandro Sallusti in prima pagina la foto di diversi uomini politici, da Napolitano, Di Pietro, D'Alema, Gianni Letta stesso, Pezzotto, Giuliano Amato, Goffredo Bettini, c'è anche la presidente di Confindustria Marcegaglia, immortalati in un convegno, eccetera, con gli occhi chiusi. E allora il giornale provocatoriamente dice: anche questi allora sono malati, il sonno della Repubblica, la prova secondo Wikileaks è talvolta si appisola. Queste sono le accuse a Berlusconi. In realtà ci sono accuse anche più pesanti venute fuori da questi Wikileaks, che sono tutti questi rapporti con Putin, con la Russia, tanto che il portavoce Bonaiuti è dovuto arrivare a smentire quello che, secondo l'ambasciata americana, viene riportato dall'ambasciatore del governo della Georgia, quindi insomma un po' tutto un derelato. Paolo Bonaiuti dice: ma Berlusconi è l'uomo più ricco al mondo, uno degli uomini più ricchi al mondo. Potete pensare che abbia preso tangenti da Gazprom per l'energia, per le questioni energetiche? Perché questa è una delle accuse, dei sospetti delle ambasciate americane, cioè che potessero esserci anche affari personali tra Berlusconi e Putin. Sta di fatto che anche Giampiero Cantoni, il presidente della Commissione Difesa alla Camera, da sempre uomo vicino a Berlusconi, dice: io, gli Stati Uniti mentono, non ho mai parlato con signori della diplomazia americana della salute del Premier, dei suoi festini, delle sue abitudini sessuali. Forse mettono in ballo io e Letta perché siamo storicamente vicini al Presidente del Consiglio. Un'intervista a Repubblica ad Alberto Custodero. Ma anche sul Corriere della Sera Giampiero Cantoni a Dino Martirano dice: ma per carità, io non ho mai parlato a nessuno. Però la politica si interroga su questo, il voto di fiducia e le nuove rivelazioni di Wikileaks. C'è anche in prima pagina del Fatto Marco Travaglio che parla di questo nel suo consueto editoriale in prima pagina. Marco Travaglio dice: Silvio, te l'avevamo detto, i soli di cui puoi fidarti siamo noi, che di te abbiamo già detto e scritto quel che c'era da dire e scrivere, noi che Wikileaks ci fa un baffo, noi che seguiteremo a volerti bene anche quando l'ultimo servo ti avrà voltato le spalle. Manca poco a quel giorno, ora che si scopre come il complotto di Assange sia un penoso autocomplotto e persino Letta, Gianni si intende, e Cantoni affiorano tra le fonti degli USA, mentre lui passava il tempo a sventare complotti del PD, e figuriamoci, di Fini, delle toghe rosse, delle penne giustizialiste, un esercito di serpi in seno ingrassavano in casa sua, pronti a spifferare tutto appena girato l'angolo, mordendo la manina che le nutre. Inizia così il consueto editoriale in prima pagina di Travaglio. Ma ci sono altri politici all'interno del governo e nell'opposizione che un po' friggono, almeno oggi, dalle pagine dei giornali, per esempio il ministro Prestigiacomo, il viceministro Castelli o la capogruppo del PD Anna Finocchiaro o il sindaco di Roma Alemanno. Sono tutti un po' criticati o citati in alcuni articoli di giornale, da cui ripartiamo dopo il traffico. In primo piano. Agenzia nucleare, dalla Camera uno schiaffo alla Prestigiacomo. Che è successo ieri? Gran pasticcio, racconta La Stampa, per l'Agenzia per la Sicurezza Nucleare, perché Michele Corradino, capo di gabinetto del Ministero per l'Ambiente, indicato dal ministro Prestigiacomo come uno dei commissari della nascente agenzia che avrà il compito di controllare e certificare il settore, è stato bocciato dalla Commissione Ambiente e Attività Produttive alla Camera. Altri invece promossi, e il presidente, che è Umberto Veronesi, esperti di tecnologia, ma invece il candidato della Prestigiacomo, il fatto del ministro dell'ambiente, è stato bocciato il capo gabinetto del ministro. E qualcuno ci vede anche la manina di Scajola in questo, e qualcun altro dice: beh, insomma, non è un bel segnale all'interno della maggioranza. E dunque Stefania Prestigiacomo, come detto, l'abbiamo citata. Poi il viceministro Roberto Castelli. Allora, oggi esce ufficialmente un libro annunciato ieri dai giornali, si intitola Metastasi, edito da Chiare Lettere, è scritto da due cronisti di Libero che hanno raccolto la testimonianza di un pentito dell''Ndrangheta che dice: attenzione, perché negli anni 90 noi a Lecco decidemmo di puntare sul cavallo di battaglia chiamato in codice nel libro Gamma, ed è un esponente della Lega che ora ha fatto molta strada. Ora, chiaramente il nome è occultato, è questo Gamma. Certo che però il vice ministro Castelli, che è di Lecco e che ha fatto successo nella Lega, dice, fa un'intervista al giornale e dice: fate i nomi, i miei unici contatti coi boss li ho messi al 41 bis quando ero ministro della giustizia. Se vediamo i leghisti presenti a Lecco nel 90 e diventati dirigenti di partito, certo il cerchio si stringe. O il sottoscritto o Stefano Galli, oggi capogruppo al Pirellone. Però li chiede Stefano Zurlo, che lo intervista. Gli autori del libro, Nuzzi e Antonelli, aggiungono che Gamma, questo citato come Gamma, questo leghista, ha fatto carriera nel governo. E allora, dice Castelli, tirino fuori questo nome. Fanno riferimento a me? Lo dicano chiaramente, non si può giocare con le allusioni, io non ho paura di niente. Certo che questa storia è paradossale. Sa quando finì il regno di Coco Trovato, che era questo dell''Ndrangheta? Nel 92 proprio, quando la Lega si impadronì di Lecco e sindaco diventò Pino Pogliani. Dunque Castelli, anche sul Fatto Quotidiano, Gamma sembro io, ecco un libro su il leghista scelto dall''Ndrangheta, ma il viceministro dice non c'entro. Poi dicevamo anche Anna Finocchiaro, oggi citata e tra l'altro da Repubblica, il capogruppo al Senato del PD, appalto al marito della Finocchiaro in Sicilia, è polemica. Emanuele Lauria da Palermo, alla fine l'assessore sceriffo regionale Massimo Russo, che ha sposato la causa dell'MPA, il Movimento per le Autonomie, che si è alleato al Partito Democratico, ha dovuto ammettere a stretti denti: mi sa che a Giarre è stato fatto un pasticcio. La vicenda raccontata da Repubblica è un appalto da 350.000 euro che l'azienda, guidata da un fedelissimo del governatore Raffaele Lombardo, ha affidato alla società di Melchiorre Fidelbo. Chi è Melchiorre Fidelbo? È il marito, è un ginecologo ed è anche il marito del capogruppo dei Democratici al Senato, Anna Finocchiaro. Tra l'altro, quando c'è stata questa assegnazione, dice Repubblica, senza gara, alla presentazione c'era chi? C'era l'assessore regionale Russo, c'era Anna Finocchiaro, c'era l'ex ministro Olivia Turco e poco distante da Anna Finocchiaro c'era il titolare di questa, del vincitore di questa gara, che era il marito della Finocchiaro. Ecco, allora, appalto al marito della Finocchiaro è polemica in Sicilia. E infine ho citato anche Gianni Alemanno perché due ex estremisti neri assunti con la cubista all'ATAC, l'azienda dei trasporti di Roma, e la vicenda dell'assunzione di due ex militanti dei NAR e di Terza Posizione, terroristi dunque di destra, Gianluca Ponzio è il primo e l'altro è Francesco Bianco, che sono stati assunti all'azienda dei trasporti con il PD che dice è una vergogna, sono terroristi che sono stati assunti e ora Alemanno dovrebbe dimettersi. Vabbè, come vedete anche politici un po' nella bufera per altre polemiche. Io voglio segnalare in conclusione sul Sole 24 Ore che oggi apre sulla liquidità BCE senza limiti e sulla situazione finanziaria europea, una bella intervista che Dino Pesole, che ieri era nostro ospite, anzi l'altro ieri a parlare del 5 per 1000, ha fatto con l'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. L'euro, moneta solida, non è a rischio, così Ciampi dice a pagina 5 del Sole 24 Ore. Ora ci vuole un rafforzamento dell'Eurogruppo per l'Italia, invece un governo di transizione, vedo delle somiglianze alla situazione del 93 con il mio governo, ritengo comunque che occorrerebbe un governo di transizione per consentire al Parlamento di varare una nuova legge elettorale e affrontare al tempo stesso i problemi più urgenti, primo tra tutti la crescita. Così dice Ciampi al Sole 24 Ore. E io vi ricordo, proprio di politica parliamo, il terzo polo con questa mozione di sfiducia contro Berlusconi, Rutelli, Casini e Fini si sono messi insieme. Che ne pensate? Il terzo polo è un'alternativa politica credibile? Votate su Radio24.it, ora il GR.